In realtà questo lavoro si chiama Horology the Second. Ricordiamo anche un Horology Number One di un paio di anni fa. Lì era una sorta di compilation, qui sono delle improvvisazioni inedite, per l'appunto chiamate Radiophonic Deviation. E questa è Contour, Onda Rossa, 87.9. Un saluto a Bruno da Genova, Daniela dalla Bulgaria, Ilir da Tirana, Albania. Dunque salutiamo di nuovo Daniela da Varna, Bulgaria, Ilir da Tirana, ma anche Milo dal Regno Unito, è una vecchia conoscenza qui di Roma che abbiamo anche ospitato in passato qui a Prove Tecniche, ossia Flavio di Pipit. Quindi Orology the Second o Number Two, come preferite, questa lunghissima antologia di brani inediti in questa dimensione decisamente ambient sperimentale, che come già detto in passato mi ricorda anche l'Aphex Twin della metà degli anni 90 con Selected Ambient, quel monumentale album soltanto di materiale ultra dilatato. Andiamo avanti, e l'abbiamo nominato il buon Raffaele di Napoli, e ricordiamo il suo lavoro incessante di sperimentatore e ricercatore musicale, sia come sonologi, suo progetto personale, ma anche come persona che si guarda in giro e studia tutte le varie sonorità, le curiosità, gli artisti più sotterranei provenienti da ogni parte del mondo. È lui che ha curato questa compilation proveniente dalla Spagna, che questa sera terminiamo di analizzare e sentire. Spanish Experimental Underground 15 Survey. Questo è il titolo dell'antologia e questa sera ci ascoltiamo due progetti dal nome Ideofonia Ancestral, con il brano che si chiama proprio Ideofonia, e Maldita Compagnia con Boreas. idrofonia ancestral nella persona di Alfonso Pretelt, colombiano ma residente in Spagna. Chi fosse poi interessato a studiare meglio questo personaggio, consiglio proprio di andare sul sito della Next Place Sounds, questa pagina Facebook che arricchisce questa trasmissione ormai in modo integrante e decisivo. Un saluto anche a Paolo Codigno dall'Olanda e David Kaiser dal Lussemburgo. Intanto ci ascoltiamo questi Maldita Compagnia. molta improvvisazione, c'è molto materiale video, c'è molto materiale sotterraneo e brumoso anche in questa maldita compagnia. Un trio composto da una vecchia conoscenza, diciamo, Ernesto Ojeda, già apprezzato proprio attraverso la compilation Testé enunciata, Testé nominata, Antonio Murga, Jesus Romero, chitarra elettrica, sintetizzatore e video, e violoncello e voce. Tutto ciò da Spanish Experimental Underground, Fintin Survey. E la prossima volta, la prossima settimana, e a questo punto il prossimo anno, cominceremo anche un po' a studiare la Germania più nascosta da questo punto di vista dell'industrial, della sperimentazione, del rumorismo. Andiamo in Italia. Arriviamo qui in Italia con Bad Sector di Massimo Magrini. Una intensa attività discografica per lui. Abbiamo qui un album del 2010 dal nome Chronoland. Tutte tracce che hanno nomi di codici, con una parte finale più leggibile, più enunciabile per radio. Ossia la traccia numero 4 dal nome Dex e la sesta dal nome Hans. Thank you. Bass Sector, ossia Massimo Magrini, il maestro Massimo Magrini, in attività da moltissimi anni ormai, nativo di Lucca. Giramondo anche di etichette, quelle italiane, la Slaughter Productions, l'Old Europa Café e tantissime esperienze all'estero, compresa la sua esperienza e collaborazione con la Loki Foundation di Lipsia, attraverso la quale è uscita questo Chronoland. Un amico e altro grosso personaggio qui di Roma, Stefano Di Serio, Lucky Wake, lo salutiamo e lo abbracciamo, spesso in ascolto di queste frequenze. La prima mezz'ora di prove tecniche di trasmissione caratterizzata da un sentire comune di tutti questi artisti che abbiamo suonato fino ad ora, e quindi cambiamo leggermente sonorità. Andiamo in Germania con November Novelet, progetto parallelo degli House Rafna. Splendido lavoro in questo 2015, mentre salutiamo anche Art Leap da Dortmund, proprio Germania. Dicevo, The World in Devotion, ultimo lavoro, terzo per l'esattezza, per November Novelet. Questo è Don't Know Why I Love You e Restless. We'll be right back. la lugubre malinconica minimal dark wave di November Novelet. Da questo In the World in Devotion, terzo ed ultimo lavoro per loro dopo 7 anni di silenzio. E ricordiamo come House Rafna, soprattutto in quella dimensione più industrial noise, che si è pian pianino prosciugata ed è divenuta più scarna. E più va avanti, più House Rafna e November Novelet si assomigliano come entità musicale. Risalutiamo il buon Flavio di Pipit, iperattivo artista romano. E anche Serena all'ascolto. November Novelet, questo The World in Devotion, tra i miei preferiti di questo 2015. Salto nel Nord Europa. Svezia, MZ412, questo Hecatomb Performance Live inglese. E intanto salutiamo anche Davide Knopstadt, anch'esso ormai una vecchia conoscenza qui di prove tecniche di trasmissione di An Express Sound. Tornando a MZ412, dicevo, Hecatomb dal vivo, una performance del 2011, ci ascoltiamo l'atto 10° e l'atto 12°. Design. Grazie ancora Raffaele, molti sono giunti all'ascolto. John Pereira Vergara da Lima, Perù addirittura. Julian dalla Francia. E noi ci ascoltiamo ancora MZ412 da questo Hecatomb. Indubbiamente Industrial Noise, ma si intuiscono in qualche modo le vecchie origini black metal di MZ412. Nordwanger, artista tra i più creativi della scena mondiale. Ricordiamo Toroid, lo stesso Nordwanger e tanti tanti altri progetti. Questo è Hecatomb, questo live registrato a Londra nel 2011. Intanto sono le 21:57, 87.9 Radio Onda Rossa. Prove tecniche di trasmissione ancora per circa una mezz'oretta, poi ci sarà 25 o'clock che andrà a concludere questo mercoledì 30 dicembre 2015. Ancora Svezia, questa volta Panzer con Peter Andersson. Questo è il primo lavoro, Human Degeneration.